Vai Milan, vai, vai, inizia la puntata prima che il mercurio nelle vene mi trasformi in un robot e il 5G mi devasti. Dai Milan, vai! Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui cari ascoltatori, 9-7 minuti, in realtà oggi Leonardo Manera non sarà con noi ma tornerà con noi lunedì, e invece c'è l'Alpino in regia insieme alla nostra prode redazione, da Mina Lucchetti, Elisabetta Fusconi a Lorenzo Nespoli, nel giorno in cui si conclude, signori, la 12ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Vedo che questionano molto sulla tenuta del governo, ma porca miseria, un'altra settimana è passata senza riforma elettorale. Chissà, la 13ª porterà fortuna? Chi lo sa? Vediamo un po'. Va bene. Raddoppiato dall'O centrale per Augen, nella sua posizione, uno contro uno, giocata la salita all'avversario. Augen apre l'interno! Ormai sta diventando il gol all'Augen. Vabbè. Podi. Un amichevole così a Praga, vabbè, primi in Europa, va bene, dai, c'è chi in Europa ha difficoltà, c'è chi in Europa ha difficoltà e quindi lasciamo stare. 9:08, siamo pronti, cari ascoltatori, con voi, 800 24 00 24, chiamateci, oppure 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp. Vai, Alpino. I will not be easy and it will not be easy. Guardi, io non userei la parola passaporto, però senz'altro ci sarà una anagrafe delle persone vaccinate che ci consentirà anche di avere un quadro più chiaro. Poi valuteremo Speranza, che Speranza, farne. Il ministro Speranza. Io spero che ci sia questo parla di forte, anagrafe, vaccini, bene, sarà uno dei temi che affronteremo magari anche nei prossimi giorni, Allora signore, alle 9:09, sono tanti i temi che avremo tra poco, tra qualche minuto avremo anche in onda il procuratore capo di Bergamo, perché lì c'è un'indagine per cercare di capire se eravamo pronti, se eravamo preparati e cosa è successo nella prima ondata in Valseriana, terra molto colpita dal punto di vista delle vittime per questo Covid. Però sapete che inizio la trasmissione ormai da giorni con questa conta che spero di terminare, ma è che evidentemente continua. Da 102 giorni, 18 marittimi partiti da Mazara del Vallo sono detenuti in Libia. A Bengasi. Devo dire, e questo mi stupisce molto, nel silenzio quasi generale, pochi giornalisti, poche voci pubbliche si sono espresse in solidarietà, forse non sono abbastanza, come dire, attrattivi questi 18 marittimi. Si è espresso di recente, lo ringrazio, lo saluto e grazie di essere qui, il vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero. Buongiorno Monsignor Mogavero e grazie. Buongiorno a voi. Perché secondo lei non fanno molta notizia queste 18 vite? Perché sono vite della periferia, perché sono marittimi, perché sono persone che nell'immaginario collettivo non contano e quindi non rivestono importanza. E la loro sorte interessa solo i familiari, ahimè non interessa granché neanche il nostro governo, a quanto pare. Ha interessato il Santo Padre, sì, è vero, che ha fatto un pubblico invito domenica 18 ottobre, ha interessato la nostra chiesa, interessa l'amministrazione comunale, però tutti interventi che a quanto pare non sono determinanti per la soluzione di un caso che adesso è diventato tragicamente insolubile, monta molto la rabbia dei familiari, come ovvio. Eh sì, inizialmente sembrava ci fosse davvero solidarietà, vicinanza e anche un attivo movimento. Adesso effettivamente c'è solo il silenzio. Lei che li conosce, li ha sentiti, noi li sentiamo ogni tanto, ma sa, lei conosce, ha più il polso sul territorio. Questa rabbia come la si tratta? Questa rabbia la si tratta innanzitutto ascoltando queste persone e le loro giuste rimostranze. Sono madri, sono mogli, sono fratelli, sorelle, padri, sono amici, sono armatori che organizzano il mondo della pesca, come si sa. Li si ascolta, si condivide, non si può non condividere la loro rabbia. Si cerca tuttavia di evitare che ci siano delle manifestazioni che fanno danno soltanto e non giovano minimamente alla causa. E questo è il modo migliore, cercare di incanalare un po' la protesta mantenendola negli alvei di una giusta rivendicazione per una soluzione che non arriva. Ieri la rabbia è montata più alta che mai, perché in 5 giorni è stata liberata una nave turca che era stata sequestrata per le stesse ragioni e forse con alcune aggravanti sempre dalle milizie di Haftar. In 5 giorni è stata liberata perché il governo turco ha mostrato i denti. A quanto pare il linguaggio della diplomazia e della politica non serve più. Bisogna mostrare i muscoli. Ma infatti questo al governo. Questo non sapevo della nave turca, ha fatto bene a dirci Monsignor Mogavero. Ma infatti le chiedo questo come ultima questione. Lei, che insomma è un uomo di chiesa, però anche qui ha detto ci vogliono i muscoli adesso, e qualche giorno fa ha evocato, ma mi aiuta a capire lei, addirittura un intervento militare o un blitz o un qualcosa del genere. Cioè, perché secondo lei bisogna arrivare a questo? Perché non ci sono altre soluzioni. È un braccio di ferro. Il generale Haftar chiede un riconoscimento internazionale che non ha. L'Italia ha un governo che dal punto di vista del confronto non ha la forza di piegare le pretese ingiustificate da parte del mondo politico internazionale. Di qualcosa che non sta neanche all'Italia concedere, e a questo punto chi le paga le conseguenze sono questi 18 marittimi tenuti prigionieri e sequestrati, dei quali non si hanno notizie. Una telefonata a metà novembre, brevissima, per un mutuo incoraggiamento, lo scambio di qualche battuta, ma null'altro. Sono comunque incarcerati. Eh sì. Il governo ha chiesto all'inizio un basso profilo perché la trattativa politico-diplomatica non fosse intralciata, ma il basso profilo, a quanto pare, i 102 giorni ne sono una prova concreta, il profilo basso non serve più. Non serve. Adesso bisogna intervenire con maggiore fermezza, perché a quanto pare chi mostra i denti ottiene, chi fa il buono o il bravo o attende pazientemente è disatteso e deluso. Monsignor Mogavero, io la ringrazio anche per la vicinanza a queste persone, io per quello che posso fare qua contiamo i giorni, detto tante volte, sperando di finire questa conta, non mi fa davvero piacere. Grato. Tenete alta l'attenzione, perché altrimenti finisce che se il problema non è un problema di tutti e non interessa a tutti, la sua soluzione è più difficile. Dobbiamo sperare solo un miracolo. Natale è vicino, che il bambino Gesù ci porti la liberazione. Vabbè, questo è giusto da parte sua dire questo. Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. È incredibile, avete sentito? La nave turca, 5 giorni, ha mostrato i muscoli della Turchia, liberati. Noi che si fa? Contiamo. Allora, ci sono tante notizie, sicuramente quella del Covid è una delle notizie più importanti. Oggi vi segnalo 2 pagine molto interessanti di Marco Imarisio sul Corriere della Sera per cercare di rispondere a questa domanda che ci facciamo un po' tutti: perché in Italia si muore più che altrove? E voglio accogliere proprio con queste due pagine il procuratore di Bergamo, Antonio Chiappani, che ringrazio e saluto. Dottor Chiappani, buongiorno e grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno, dottor Milan, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io le sottopongo questa notizia, scrive Marco Imarisio. È vero, è uno studio della Columbia University, parla degli Stati Uniti, ma dice questo lo studio: se gli Stati Uniti e altri paesi avessero agito una settimana prima di quanto è stato fatto, si sarebbero ridotti i morti del circa il 50%. Agendo due settimane prima, si sarebbero ridotte le vittime dell'85%. Ora, lei ha in mano, la Procura di Bergamo, un'indagine molto delicata per cercare di dare delle risposte a capire come mai ci sono stati così tanti morti in Val Seriana. Siete vicini a fare una panoramica di quelle che possono essere state le eventuali responsabilità, dottor Chiappani? Sì, dottore, devo dire una piccola premessa. L'oggetto dell'indagine di Bergamo, il perché di Bergamo, l'oggetto dell'indagine è capire perché c'è stata una diffusione esponenziale del contagio proprio in quella città e com'è stata la gestione della prima ondata di pandemia che ha travolto la Lombardia. Io ricordo 3.100 morti a Bergamo e 21.000 contagiati nel territorio bergamasco nell'ambito poco più di un paio di mesi, sì. Quindi una cifra terribile, e il problema è capire il perché. Se qualcosa non ha funzionato, se questo era inevitabile. E poi si va negli scenari cui fa riferimento anche lei, ha fatto riferimento anche lei adesso, e cui fa riferimento quella notizia giornalistica. Sì. Si va nel probabilistico, si va nello studio. Noi logicamente, come procura, dobbiamo andare sui fatti e sulle eventuali responsabilità. Ed eventuali responsabilità. Una cosa però lei l'ha già detta, credo, in un'intervista, sì, al Corriere della Sera, e cioè eravamo impreparati. Questo, sì, quantomeno lo si può dire. Ci può dire, far capire agli ascoltatori quali atti vi fanno dire con certezza questo? Diciamo che sempre constatando quella che è stata l'esperienza Bergamo, e io parlo dell'esperienza dell'eventuale mancata istituzione della zona rossa e della chiusura e riapertura dell'ospedale di Alfano Lombardo. Sì. Il problema è della gestione del rischio della pandemia, e qui posso dire che si era del tutto impreparato, nel senso che ho visto qual è stata la reazione. Non c'era un piano operativo, e c'è stata, come dire, improvvisazione. Questa è la cosa che posso chiaramente dire con tranquillità. Cioè, non c'era un piano operativo di intervento, una consapevole gestione del rischio di diffusione esponenziale del si è parlato del piano pandemico per l'influenza del 2017, che pare tra l'altro fosse copiato da un precedente piano del 2006, proprio con passaggi simili, se non uguali. Questo è chiaramente oggetto dell'inchiesta, per cui alcune cose devono essere approfondite. E va fatta anche una certa chiarezza, nel senso che il piano pandemico cui fa riferimento a quel piano cui oggetto dell'indagine giornalistica di Report. Sì. Il piano che quello era un piano anti-influenzale, pandemia anti-influenzale, precedente al 2006, e che è stato poi riproposto nei vari anni successivi fino al 2017. Qui il problema è se si tratta di un piano confermato o di un piano non aggiornato. Questo è l'oggetto della prima, sì, anche giornalistica. Sì, poi il coronavirus, sì, non è l'influenza, quindi sono due cose, esatto, anche diverse. Quindi. Ecco, però l'importante è tenere presente due cose. Innanzitutto che i piani pandemici, per quanto riguarda i piani pandemici, dal 2006 in poi ci sono state tutta una serie di interventi anche internazionali, un regolamento sanitario internazionale del 2012, dove si dovevano indicare le strutture e le risorse che devono essere completate proprio in previsione del rischio. Mm. Le decisioni del Parlamento europeo, addirittura risalenti al 2013, linee guida dell'OMS che già dal 2006-2007, ma fino al 2018, ogni anno, venivano fatte. Ecco, ma mi scusi, procuratore, io le chiedo questo in astratto. Lei ha capito chi un piano pandemico dovrebbe farlo? Cioè, in un paese come l'Italia, a chi spetta questo compito? Allora, l'abbiamo visto abbastanza alla svelta questo, e lo possiamo constatare, perché allora, la cronologia è importante. Il 5 di gennaio c'è il primo allarme dell'OMS, non si parla ancora di Covid-19, però c'è l'allarme di questa diffusione che viene dalla Cina. Abbiamo poi, se non vado errato, il 27 di gennaio, cioè successivamente l'allarme aumenta, il 31 di gennaio abbiamo la dichiarazione propria da parte dell'OMS e anche da parte dell'emergenza da parte del nostro governo. Ora, chi spetta? Qui abbiamo il giorno, se non vado errato, 10 o 12, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che era stato istituito subito dopo i primi giorni del febbraio, quindi subito dopo la dichiarazione di emergenza. Ora, uno dei primi atti che ha fatto il CTS è stato quello di ricostruire gli scenari possibili di un intervento nell'evolversi della situazione pandemica, tanto che l'inizio di una ristrutturazione del piano pandemico è stata proprio attuata, cioè la necessità di aggiornare o di costituire, di fare un piano pandemico è stata proprio sentita dal Comitato Tecnico. Sì. Teoricamente o tecnicamente che lo doveva fare il Ministero della Salute, quindi è il Centro Nazionale della Prevenzione e Controllo delle Malattie. Quindi è il Ministero della Salute che deve, così in linea astratta, in generale, insomma, al di là di questo caso, in tutti i casi, uno dei compiti, quindi il Ministero della Salute. È per questo che si dice l'inchiesta potrebbe, nel caso, arrivare anche a Roma. Insomma. Guardi, questo è ancora un problema, non ce lo stiamo ponendo, perché lo dico in tutta sincerità, la nostra finalità è quello di capire cosa è successo e che cosa non ha funzionato. Questo poi certamente. I problemi di responsabilità li vedremo. Noi stiamo raccogliendo informazioni, ma per far capire alla gente di Bergamo il perché. Ecco, a proposito, c'è un altro grande tema dibattuto da mesi. Non so se avete capito anche questo: a chi spetta o a chi spettava nel caso stabilire la zona rossa? Perché qui c'è il grande dibattito: spetta il governo centrale, no, spetta le regioni in nome di, come dire, un'autonomia in campo sanitario. C'è una chiarezza al 100% su chi fosse? Chiaramente non c'è, e su questo punto sono già intervenuti giuristi. Il problema però non riguarda, tra virgolette, la nostra indagine, perché ai primi di marzo la Lombardia mi pare sia stata chiusa l'8, se non vado errato, marzo, 9 marzo, ma ormai la diffusione esponenziale della pandemia c'era già, per cui il problema della zona rossa in un certo senso è un problema che in questo momento non ci stiamo ponendo. Che un problema che porrebbe ulteriori grossi problemi di carattere giuridico e penalistico, perché occorrerebbe stabilire, fare anche, scusi la terminologia, un giudizio contraffattuale. Cosa sarebbe successo se fosse stata istituita? testa mia. No, ma è chiaro. C'è un altro punto fondamentale, dottor Chiappani, cioè questo. Il direttore generale all'epoca della prevenzione era Ranieri Guerra, che ora è il direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È vero, lei ha detto, in quanto membro dell'OMS ha diritto all'immunità diplomatica. Voi lo avete anche sentito, questo sarà coperto ovviamente da segreto istruttorio, cosa vi ha detto. Però questo ce lo può confermare, cioè all'immunità diplomatica in quanto OMS. Sul punto specifico, oltretutto, abbiamo anche interpellato il Ministero degli Esteri. La situazione è concreta per fare chiarezza, Io non posso dire cosa ovviamente ci ha riferito il professor Guerra e anche quali sono le nostre conclusioni, che in questo momento non ci sono ancora tanto conclusioni perché stiamo approfondendo tutte queste tematiche. La situazione certa è questa, che l'OMS è un'agenzia dell'ONU, quindi in base alla Convenzione ONU di New York del 1947, allegato 7, che riguarda proprio questa agenzia, l'OMS ha lo status diplomatico, quindi questa immunità. Il problema è a chi si estende. Senz'altro Ranieri Guerra e altri soggetti che sono funzionari dipendenti dell'OMS hanno queste guarentigie. Sul punto non c'è dubbio. Il dubbio sorge solo che cosa sono queste guarentigie, qual è la loro latitudine, nel senso che c'è un'immunità per quanto riguarda, tra virgolette, la valigetta diplomatica, per quanto riguarda un'immunità fiscale, per quanto riguarda tutta una serie di attività dove è direttamente interessato il diplomatico, chiamiamolo così. Il problema per noi è un altro. Questo coinvolge anche un divieto di testimonianza di fatti che riguardano terze persone, punto di domanda. È per questo che vi siete rivolti al Ministero degli Esteri. Ora la prassi, la procedura è questa. Noi dobbiamo, questi soggetti li possiamo citare solo tramite il Ministero degli Esteri, non i nostri carabinieri con la nostra politica. Siamo rivolti al Ministero degli Esteri per questa citazione e siamo in attesa di risposta da parte dell'OMS. Io, Antonio Chiappani, la ringrazio, insomma non deve essere facile questo lavoro, lei si è insediato anche da non tantissimo, lei ha detto quando si è insediato onore ma anche onere, perché insomma arriva in una terra che è stata duramente colpita, far chiarezza non sarà facile. Buon lavoro, insomma, grazie per quello che fate e vedremo se ci saranno degli sviluppi. Intanto io la ringrazio molto, procuratore di Bergamo Antonio Chiappani. Ripeto, la procura di Bergamo indaga per cercare di capire eventuali responsabilità sul numero di morti che ci sono stati lì in Val Seriana nella prima ondata. Riguardo anche questo, mi hanno molto colpito i servizi, gli articoli nei quali si critica, e volevo sottoporre questa riflessione a voi magari per parlarne all'800240024, in cui si critica per esempio il modello Svezia. Ho sentito, vedete in Svezia che non mettono la mascherina, il 99% delle terapie intensive sono sature adesso. Io mi pongo sempre nel dubbio, cioè diffido di tutti coloro che hanno le certezze e soprattutto di coloro che puntano il dito dicendo vedete noi siamo meglio di loro, a parte che se veramente vediamo il numero di morti in Italia, questo grande modello Italia che è stato diffuso, io non è che lo vedo molto corroborato dai numeri e dai dati. Comunque io non... mi asterrei sempre dal dire noi siamo meglio, loro sono peggio, quello è peggio, io sono meglio, cioè non capisco da dove derivi questo senso di superiorità morale, ecco. non mi azzarderei mai a dire una frase del genere. È una scelta filosofica ed etica di come una società cerca e vuole concepire il senso della vita. In Svezia, evidentemente, immagino, io non sono svedese, non lo so, avranno deciso di anteporre come valore assoluto la libertà rispetto alla salute biologica a tutti i costi. Hanno scelto così, hanno scelto quindi di vivere senza mascherina, senza grandi limitazioni. È ovvio, questo lo sa anche un bambino, che questo comporta un aumento della diffusione del virus. Così il virus circola di più. Lo sanno probabilmente anche gli svedesi, non è che non lo sanno, non è che sono stupidi gli svedesi. Evidentemente, ripeto, hanno scelto così. Hanno scelto che per loro è giusto vivere la vita così. Magari non tutti saranno d'accordo. Quindi per loro i migliori saranno loro rispetto a noi. E per alcuni di voi noi siamo migliori rispetto a loro. Io non lo so, non ho una risposta. Non arrivo a dire noi siamo meglio, loro sono peggio. Osservo, cerco di capire, vivo di dubbi. Ecco, e voi che vivete di tutte queste certezze, io non vi capisco. Vorrei riuscire a vivere di certezze come vivete voi. Io vivo soprattutto di dubbi. Comunque, questo almeno non mi porta in maniera arrogante a dire noi siamo meglio degli svedesi. Non lo so. L'alpino, per esempio, non è meglio di uno svedese. Insomma, però. Magari Milan Lucchetti sì, non lo so. Io non lo so. Ho i dubbi. L'unica certezza ora è la pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Ad essere te un grande, abbiamo anche un grande Milan quest'anno. Fammi passare in diretta, che lo sappiano tutti, che risolleviamo la testa. Parliamo di queste cose, avanti. Do you wanna keep safe and keep control and stay rich with your mind? Cioè, ma se prima eravamo impreparati, e come mai che stiamo avendo esattamente lo stesso numero di morti adesso che invece siamo preparati? O almeno Conte dice che il modello italiano ce lo invidiano in tutto il mondo. Io di sto modello non ne sento parlare nella stampa estera. Comunque, vedi un po'. Ma Speranza non lo sa che esiste già un'anagrafe vaccinale all'interno di tutte le ASL, di tutti i comuni, di tutte le regioni italiane? Poveri noi, in che mani siamo messi? Aspetta Milan, la tua è un'autostima a 150%, come direbbe qualcuno, oppure non lo so, perché se qualcuno ti critica tu rispondi piccatissimo nel giro di un nanosecondo. Le tue idee sono sempre perfette, ma hai veramente un'autostima, un'immagine di te fantastica. Ma veramente, ma neanche Renzi. Neanche il bomba. Per la verità, cara ascoltatrice, ho appena finito di dire, fino a pochi minuti fa, che vivo di dubbi, mi sveglio al mattino con un pensiero e alla sera l'ho già messo in discussione. Cioè, vivo di perenni dubbi, non ho alcuna certezza se non quella di dover pagare le tasse. E purtroppo e di dover mandare la pubblicità ogni tanto nel clock e lei mi dice che vivo di certezze. Allora non mi sono spiegato bene, proprio il contrario. Vivo, ho dei pensieri e li metto in dubbio nel momento in cui li formulo, quindi però vabbè, comunque siamo qua. 9:40 minuti. Allora c'è Massimo che ci chiama dalla provincia di Como. Buongiorno Massimo. Sì, sono Marco, buongiorno. Va bene, però un tempo però... nella vita è stato anche Massimo, secondo me. Sì, anche il terzo nome, vero. Marco, scusi, prego. Niente, dicevo per la tessera sanitaria, che era un ottimo veicolo per fare l'anagrafe vaccinale, oltre a quello che ha detto quell'ascoltatore. Sì, sì. Presso le ASL, quindi problema inutile, perché c'è già la tessera sanitaria da anni. Secondo me, Marco, la questione non è tanto, adesso ci si focalizza sul fatto che Speranza abbia detto facciamo l'anagrafe sanitaria, come se ci volesse uno strumento in più. Secondo me forse si è espresso in maniera veloce, vuol dire banalmente è il tema, e su questo vorrei un suo parere, il tema se mettere o no quello che viene chiamato il patentino, cioè segnare sei stato vaccinato contro il Covid, e questo ti può permettere, immagino, una maggiore libertà rispetto a chi non ha il vaccino. Lei questo cosa? Beh, intanto comincerai a fare il vaccino e metterlo sulla testa o qualunque altro sistema, poi dopo, in funzione del successo o meno della campagna vaccinale, potrai decidere di, a seconda del rischio che rimane sulla società, sì, dire facciamo il patentino oppure trasformiamo il dato per qualcos'altro che serve alla mobilità della persona. Allora, fare il vaccino e segnarlo, questo è il minimo, come qualsiasi altro vaccino, è giusto per sapere uno che tipo di vaccinazione ha fatto. La discussione magari la affronteremo anche nei prossimi giorni, è se questo vaccino dia la possibilità di fare alcune cose che invece chi non è vaccinato non potrà fare. Cioè, lo traduco, quando è uscita fuori la notizia qualche giorno fa che la linea aerea australiana, la Qantas, ha detto non salirà sui nostri aerei chi non è vaccinato, qualcuno la vede come una cosa giusta, altri la vedono come una discriminazione. Oppure l'Australia stessa ha detto andremo verso una situazione in cui per entrare in Australia ci vorrà questo vaccino, chi non l'ha fatto non viene in Australia, e questo è il tema fondamentale. Andrei, grazie Marco. Andrei in provincia di Verona. Alberto, buongiorno Alberto. Buongiorno Milan, sì. Buongiorno. Io vi seguo tutta la mattina, ma un brevissimo intervento, guarda, su due temi. Primo, la Svezia. Ma allora, mi sembra che siamo in un mondo in cui l'informazione sta veramente deviando oltre, perché sei stato il primo, Milan, che ha detto una cosa interessante stamattina fra tutti. Cioè, il modello Svezia, anche guardando i grafici Google sui decessi e sulle morti, quindi un grafico accessibile a tutti, se ieri la Svezia penso abbia avuto due morti o tre morti su una popolazione di 10. Però la notizia che è uscita ieri è che il 99% delle terapie intensive a Stoccolma sono occupate, quindi di fatto non ci sono più posti letto. Sì, esatto, ma è una notizia che è palesemente una notizia falsa. Perché falsa. Se in un paese di 10 milioni di abitanti ci sono stati 10 morti, in rapporto ai nostri, è chiaro che non è una notizia che può essere vera. Ma è questo, lo si desume. Guardi, che le terapie intensive siano piene in questo momento a Stoccolma è una notizia che hanno detto tutti i giornali, perché la dobbiamo mettere in dubbio? Ripeto, cioè, lei ha notizie rispetto al Ministero della Salute svedese? No, quelle non le conosco, quelle non le ho viste. Tutti i giornali raccontano, ma giornali anche svedesi, che in questo momento le terapie intensive a Stoccolma sono piene al 99%, cioè non c'è più un posto letto. Questo non l'ho verificato, non posso dirlo. Quello che ho verificato è però questo, cioè il rapporto tra la popolazione, sono 10 milioni di abitanti, e il numero dei decessi rispetto al nostro, parliamo forse di decessi che sono lo 0, rispetto ai nostri decessi. Dopodiché non so se la Svezia ha 100 terapie intensive in tutto o ne ha 5.000, questo non lo so. Sono 160 a Stoccolma, le terapie intensive sono 160. Beh, comunque la questione, io sono d'accordo con lei sul fatto che non si possano fare paragoni, sono a parte che sono demografie diverse, distribuzione della popolazione diversa, no? A parte Stoccolma, dove si vive una grande città, in Svezia si vive più distanti l'uno dall'altro, ci sono più spazi. ma a me quello che non piaceva era il discorso noi siamo peggio, o meglio noi siamo meglio, loro sono peggio, ma non perché io dica loro sono meglio, io dico non lo so, mi astengo da questo tipo di giudizio morale. Non è che dico se non mettono la mascherina sono peggio di noi, hanno scelto così, è una scelta filosofica di come si affrontano le difficoltà della vita. Comunque grazie per questo intervento, Alberto. Andrei un attimo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is Never Waters. Milan, un uomo senza certezze che non deve chiedere mai. Beh, una certezza c'è, Milan primo in campionato e in Europa League. Ecco, questa è un'altra certezza. Infatti sospenderei tutto. Sospendiamo tutto, sospendere tutto. C'è Giorgio dalla provincia di Como? Giorgio. Sì, pronto. Eccoci. Buongiorno. Prego. Tanto beh, la sua trasmissione è inutile dirla che è una trasmissione molto gradevole. Volevo riferirmi prima a quanto ha detto lei sulla Svezia, sono totalmente d'accordo, anche perché io non guardo mai quello che fa il vicino. Guardo quello che posso fare io nella mia famiglia, sì. E non mi consolo e non prendo neanche esempi, perché ognuno di noi ha i nostri difetti e i nostri pregi. Quindi la Svezia, se ha deciso di comportarsi così, sapranno perché l'hanno fatto. Sì, c'è un dibattito anche in Svezia, cioè molti contrari a questo atteggiamento dicono basta per la vostra libertà di prendere gli aperitivi. Riempiamo, come vede, il dibattito è simile in tutto il mondo, e c'è. Ci deve essere, altrimenti se fossimo tutti uguali sarebbe un mondo veramente stupido. Per seconda cosa, quello del vaccino, io sono un po' scettico in una questione, cioè sì. Io ho 75 anni, non mi sono chiuso in casa. Non mi sono assolutamente chiuso in casa. Sono uscito, sono andato in giro, ho frequentato gli amici, ho frequentato naturalmente con la mascherina, sì, sì. Nel modo che si deve andare, e sto benissimo, fortunatamente fino adesso. Ora, l'idea di iniettarmi una malattia, perché è chiaro che iniettiamo una percentuale di malattia per creare gli anticorpi, sì. Non è che mi piaccia molto, sinceramente. Ma lei nella secondo, vita ha fatto i vaccini? Io mai, sinceramente. Ecco, vedi, quindi mai, cioè non ha mai fatto un vaccino, lei è un Novax, possiamo dire. No, un Novax. No, io non ho mai fatto il vaccino, da piccoli ce l'abbiamo fatto tutti, quelli che ci facevano fare, quelli certo, lì non si poteva decidere. Per esempio, l'anti-influenzale io non lo faccio, non l'ho fatto, non l'ho mai fatto e sinceramente fino ad oggi sono stato bene, non vorrei portarmi rogna proprio in questo momento. Ma no, vabbè, insomma, quindi lei dice perché finora è andata bene così perché è vaccinato. Cioè, a questa Giorgio. No, ma che succede? Vabbè, grazie Giorgio della provincia di Como. No, ma questa sigla l'avevamo dimenticata, l'avevamo buttata nel cestino. Cosa succede? Perché? Cucù. No, cucù. Cucù. Elisabetta Fusconi, ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Buongiorno Alino. No, banalmente io volevo rendervi partecipi della mestizia in cui verso. Perché? Nel salotto di casa mia. Qui sono. Ma come, perché? Perché di fatto io da ieri sono prigioniera della Repubblica Italiana. Non so se. Questa cosa italiana, possa avere rilevanza o meno. Sei italiana, cosa vuoi? Prigioniera in che io senso? Chiederò cittadinanza onoraria alla Repubblica di San Marino, perché banalmente da ieri mi viene impedito di fare le consuete toccate fuga verso la Svizzera, magari, che ne so, per andarmi a prendere una confezione di rösti al Migrolino di Mendrisio, non posso più farlo perché mi viene richiesto il tampone. Scusa, cos'è che vai a mangiare e dove? Ripetilo bene per gli ascoltatori. No, no, li vado solo a comprare, poi dopo li cucino qua in Italia. Sì. I rösti, ovviamente, i rösti. Ogni tanto faccio queste toccate fuga. Cosa sono i rösti? Allora, facciamo un sondaggio al 349-238-6666. I rösti, allora, secondo voi sono Giuseppe Di Licata, che ci ascolta, lo sa. Lo sa. I rösti, dai, ditelo. Vabbè, sono una prigioniera. Di fatto sono prigioniera dello Stato italiano, perché questo tampone mi impedisce la libertà di movimento. Adesso mi rendo conto che di fronte all'emergenza pandemica questo sia l'ultimo dei problemi. Però è un problema, volevo sollevarlo in maniera plateale. Allora, guarda che arriva subito il pollo arrosto, i rösti. Beh, ci sono alcuni che rispondono giusto e quindi non lo dico. Non vale guardare su Google, però, dai. Sì, va bene, lo sanno tutti, patate. Sì, ma non puoi licenziarla così facile. Patate sono patate cucinate in maniera, con una tecnica raffinata e ricercata. Patate fritte, non vengono a patate tutti. Fritte. Ma no, ma è un'eresia licenziare i rösti come patate fritte. Dai, per favore, ascoltatori. Vabbè, qualcuno mi tiri su di morale, sennò io adesso urlo. Dai, guarda, senti, sto aprendo la finestra in questo momento, adesso urlo. No, già dico, che non sono c'è prigioniera. Manera, già che non c'è, ma dai, sono fallo, in casa prigioniera. Fallo, ti prego, che di solito lo fa Manera, oggi non c'è, urla alla finestra. Lo sto facendo. Vai, di più. Lo sto facendo. Popolo italiano, non posso andare in Svizzera a comprare i rösti. Non posso, devo fare sennò il tampone. Capito? Comunque mi dicono, cara Elisabetta, c'è una suora che mi ha guardato. Sì, mi dicono puoi farle a casa, due patate via, sono patate cipolle, sono patate schiacciate, magari, non mi sono mai venuti. Ma va, è veramente difficile. Ho provato una volta, è venuta una specie ma di poltiglia mangiabile. Ma sono patate sminuzzate con delle cipolle. Ma crimpio! No, c'è tutta una salsina anche di cipolla che le accompagna. È secretata, tra l'altro, secretata, quindi no, sì, lasciamo sì, stare. Sì, sì. Poi un giorno parlerò del pollo al cestello, specialità svizzera, cotto con una salsa che è davvero secretata. Nessuno al mondo sa come viene fatta. Vabbè, ragazzi, comunque, ma questo è il problema, un'altra occasione. Signori, altro qua ci interroghiamo, fanno bene in Svezia, non fanno bene in Svezia, la procura di Bergamo. Il problema sono i rösti per Elisabetta Fusco. Fusconi, voi capite? Cioè, vabbè, Fusconi, vai a lavorare, che dobbiamo andare al giornale radio. I rösti. Giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. So I packed my things and ran, far away from all the trouble. I cast with my two hands, alone we traveled on, with nothing but a shadow. We fled. Magari chi prende quelle decisioni filosofiche in Svezia dovrebbe anche chiedersi che cosa pensano quelli che non hanno queste stesse decisioni filosofiche e che invece preferiscono vivere piuttosto che prendere un aperitivo. Grazie, Enrico da Roma. Grande dibattito di chi deve prendere delle decisioni. Prendere una decisione che vada bene a tutti non è possibile. Buongiorno, sono Marina. Io devo spezzare una lancia per Mila, per la pazienza che ha ad ascoltare tutte le castronerie che dicono durante la sua trasmissione. Vorrei averlo sempre accanto, un uomo così, davvero, meraviglioso. I grandi piatti della tradizione cantonese, come si fa a stare senza? Fusconi, ma quanti ne hai per andare in Svizzera a comprare cibo e poi riportarlo in Italia? La famosa transfrontaliera del cibo. Ma perché non dice a quella antipatica della Fusconi di fare il tampone una sola volta, andare in Svizzera e rimanerci? Grazie. Ma sa quante volte glielo diciamo qua? Ma sa quando? Una volta, caro ascoltatore, una volta. No, tolgo solo l'antipatica, non è vero che è antipatica, ma quante volte glielo diciamo, ma perché non te ne stai in Svizzera se la Svizzera? Sai, proprio il classico argomento di chi dice, ma se ti lamenti, ma perché non te ne vai al tuo paese? Se non è uguale, solo che il suo paese è anche l'Italia, non si capisce, è ambigua, è ambidestra, non lo so. Gaetano dall'Aquila, buongiorno Gaetano. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Eccoci. Senta, volevo dire alla signora che non riesce ad andare in Svizzera, venga in Abruzzo, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, dove penso la stessa ricetta, noi la chiamiamo le patate maritate, ovvero una bella padella, patate tagliate a fette sottili, cipolla, astrati, e prezzemolo con pane raffermo, In polvere. Secondo me nel rosti non c'è, il pane raffermo in polvere. Così astrati e poi metterla nel forno ed è una cosa meravigliosa. Ma non c'è la cipolla? Non c'è la cipolla. Dipende dai paesi, però alla base è il pane raffermo molto molto tagliato, molto fino, patate maritate, bello perché sono sposate bene con il condimento che le distingue da uno strato all'altro. Ah, ma è stupendo, grazie caro ascoltatore, grazie carissimo Gaetano per la puntata di oggi di Mangia Come Parli. È tutto, puoi mandare la sigla, caro Alpino, con Oldani e Pardo, ci sentiamo. Scherzo, dai, siamo qui con la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Ma vedi, abbiamo parlato di tanti argomenti, abbiamo detto tante cose, abbiamo parlato con il procuratore di Bergamo, con Monsignor Mogavero, che chiede un'azione di forza militare per liberare 18 pescatori, e poi arrivano i rösti a spezzare l'incantesimo. E a lei. Franco dalla provincia di Como, buongiorno Franco. Buongiorno a tutti. Buongiorno Franco. Prego. Io ho chiesto appunto di poter intervenire perché ieri, sentendo la trasmissione, quando è intervenuto, spero di non sbagliare, insomma, il professore di musica, di flauto dolce. Sì. Che diceva che purtroppo quest'anno gli zampognari non potranno scendere dalle montagne, e in realtà non è così. Non è così. Perché io faccio parte di un piccolo gruppo di zampognari. Ah, stupendo, cioè lei è zampognaro? È zampognaro. Sì, sono camionista con la passione delle zampogne. Bello. E quindi potete invece esibirvi? Sì, allora, naturalmente bisogna avere la richiesta ufficiale, in questo caso noi abbiamo già fatto un'uscita proprio sabato scorso, nel comune di Santa Maria Maggiore in Valvigezzo, per poter fare il video augurale appunto del comune, e appunto ci vuole la richiesta ufficiale, in questo caso del comune, dove si citano le varie regole, le varie leggi, e essendo gente di spettacolo possiamo spostarci, naturalmente deve essere assicurata, in questo caso noi eravamo in paese ma praticamente eravamo in mezzo ai boschi, non c'era nessun assembramento, no? E questo avverrà anche in questi fine settimana nel comune di Tremezzo, pertanto gireremo nei borghi proprio arroccati lì sulle rive del lago di Como. Quindi con tutte le precauzioni, con tutti i sistemi di sicurezza, viva gli zampognari che potranno portare. Ma come nasce questa passione per la zampogna? Allora, io in realtà sono anche stato segretario, responsabile, maestro e capogruppo, più che maestro, di un gruppo folcloristico tradizionale della provincia di Como, gruppo che usa come strumento il flauto di Pan. Il flauto di pane, che, sì, sì, che è tipico sudamericano, non è, che non è il flauto dolce, giusto? No. Il flauto, no, che poi attenzione a dire che è tipico sudamericano perché non è così. Ah, ecco, anche quello diciamo, sbagliato. No, non è che ha sbagliato, è che appunto viene indicato come tipico sudamericano. In realtà in Brianza il flauto di pane, conosciuto anche come fregamuson o firlinfeu, Fregamuson perché specialmente nel canturino viene chiamato fregamuson perché per suonarlo lo si strofina sul muso e ne sfrega il muso il viso, esatto, oppure l'altro termine francesismo è firlinfeu perché il suono che emette strofinandolo, facendolo scorrere avanti e indietro sulle labbra è appunto questo perciò è un firlinfeu. Sì. Beh, ma stupendo, Franco, io la ringrazio per musica, maestro, è tutto, cari ascoltatori. Oggi, no, ma è bello, io amo i miei ascoltatori, i nostri ascoltatori, perché ci danno delle chicche di cultura. Noi qui parliamo di tutto, mettiamo in campo notizie, poi quando apriamo i telefoni la gente dà il proprio contributo, non censuriamo nessuno e ci arrivano queste perle di cultura. Perle di cultura come quella da Franco della provincia di Como, che ha ripreso ieri l'ascoltatore che era docente, è docente al Conservatorio di Alessandria sul flauto dolce, e così, e ci piace adesso dico questa parola, coltivare la nostra community. Insopportabile ascoltatore, perché dico questa parola community? Lo capirete tra poco, perché dovrei essere censurato per l'utilizzo di questa parola, ma abbiamo la nostra community di Uno Nessuno 100.000. Uno Nessuno 100.000. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. Riferite alla Fusconi, che da domenica può prendere il treno, sono state abolite le restrizioni tra Lombardia e Canton Ticino. Non parlate male della Svizzera. È uno splendido paese per nascerci e per morire. Il problema è che in mezzo che ci fai? No, vabbè, dai. Comunque, caro ascoltatore, si immagina Fusconi che prende un treno e va. Ma passerà con una decappottabile anche al 23 di dicembre, con meno 20 gradi, con un foulard al collo e una cilindrata di non meno di 2500 nel motore. Dai, passerà il confine così. Vabbè, dai, si scherza. Io prima ho detto, poco fa ho detto, saluto tutta la straordinaria community di Uno Nessuno 100.000, parola insopportabile, ma l'ho usata apposta anche per introdurre l'argomento che ora svisceriamo. Mi ha anche incuriosito il fatto che l'Accademia della Crusca abbia criticato la app Io, sapete la app, l'ultima, no? Quella per il, ecco appunto, il cashback, giusto per l'utilizzo degli inglesismi, di termini come onboarding, brand, renaming, form, pare che ci siano questi, io non sono entrato nell'app Io, peraltro molti hanno provato a entrarci inutilmente, ma di questo vogliamo parlare, lo vogliamo fare con un analista del linguaggio, ha anche scritto un libro che si intitola Grammatica umoristica per Margan Edizioni, Francesco Mercadante. Buongiorno Mercadante, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Allora, guardate che Francesco Mercadante mette sotto la mordacchia anche tutti i conduttori, me compreso immagino, radiofonici, che sulla consecuzia, insomma, sull'uso del congiuntivo. Ecco, però diciamo subito una cosa. Se io dico, Mercadante, io sì, sono convinto che questa trasmissione è la più bella al mondo, chiaramente non io uso il congiuntivo. Io sostituirei con un congiuntivo, esatto, ecco, con un esatto, congiuntivo presente. Io lo farei, diciamo, poi però, chiaramente però, ciascuno è libero, no, di non certo, farlo. È chiaro che si dice io sono convinto che sia... Però, esatto, esatto, però nel linguaggio parlato ormai è entrato abbastanza in uso comune, no? Quello dell'usare l'indicativo presente. Possiamo dire che ci sono delle forme di tolleranza e di apertura da parte dei grammatici. D'altronde la lingua è un'espressione viva della comunità, sicuramente ha un substrato normativo vincolante, per così dire. Però nel lungo periodo tutte le lingue subiscono delle metamorfosi, come la nostra, così qualsiasi altra. Di qui ad eccedere è sbagliato, ce ne passa, per usare, diciamo, un'altra espressione magari popolare. Sì. No, ma è chiaro che se lei fosse professore di italiano arriva un tema con questa trasmissione, quella frase di prima, dice che lo corregge con la penna rossa. Io lo segnerei doppiamente. Sì, ma proprio rosso-blu, giusto per dare un'ampia scala la cromatica, no? Cioè almeno diverte. Ma chi è? Cioè questo bistrattamento della lingua che effettivamente c'è. Intanto ci dica gli strafalcioni che più la fanno inorridire e quelli che sono più quelli diffusi. Che mi hanno divertito di più, perché questo sì, libro nasce proprio da un momento dal mio diletto, perché sì, ho iniziato proprio a raccogliere e a fare incetta a un certo punto di strafalcioni proprio sulla rete. Commessi, strafalcioni tra l'altro che provenivano da ministri, da sedicenti scrittori, consiglieri di lingua, insomma categorie devo dire che si presentavano con un certo blasone. E ai politici attribuisco uno degli errori diciamo più allarmanti dell'ultimo sì, periodo, cioè scambiano continuamente, e vorrei capirne il motivo, l'esortazione con l'ipotetica, cioè congiuntivo imperfetto e congiuntivo presente. Dicono spesso facessero il proprio dovere, guardassero in casa propria. In realtà si dice facciano il proprio dovere, perché facciano è un'esortazione, mentre facessero fa pensare, non so, a un'ipotetica. Sì, a un se facessero il proprio sì, anche qui è un nasce, no, se facessero il proprio dovere succederebbe questo, però diventa un'esortazione ipotetico, cioè facessero sì, il loro dovere, tutto sommato diciamo d'arbitrio possiamo fare ciò che desideriamo, sì, sì. Però è un errore. E invece un altro errore, è chiaro che non si può fare una classifica rigida degli errori, però una cosa che riscontro molto di frequente e l'uso di a me affascina come se fosse un a me piace. Beh, in realtà a me affascina non si può proprio dire, perché mi affascina, ma mi affascina ci fa non ci è fa mi pensare. Piace. No. Però non, qui siamo nella semantica, no? Ancora per insomma, è un erroraccio di grammatica, bello e buono. Mi affascina, mi spaventa. Non possono diventare a me affascina. No, ma guardi, io intendevo anche il confondere forse il senso del verbo affascinare e piacere, sono due significati anche diversi, no? Sì, qui bisognerebbe entrare pure in temi di sociolinguistica o forse di psicologia del linguaggio. Però lei in una recente intervista ha detto anche, poi ci sono gli inglesismi, questi sono, e lei giustamente ha detto, ma che cavolo sono, uno faccio il digital media strategist, per carità, cioè sono... ti occupi dei social, che poi anche social, allora cosa dobbiamo dire? La parola più... eccitante direi, mi lasci usare questo aggettivo così un po' impertinente, la parola più eccitante sotto questo punto di vista è manager, perché ed è un fenomeno radicale che ha per così dire lontane origini, io ritengo che sia anche socio-economico il problema, perché alle origini di questo web 2.0 c'è stata una proliferazione indeterminata di titoletti, di etichette, in autoproclamazione, come content manager, web marketing manager, personal branding manager. Io prendo, in altri termini, in prestito da una lingua straniera ma vicina, perché estesa, perché universale ormai, no? Se vogliamo usare questo termine, lo prendo in prestito e copro o colmo delle mie lacune professionali, umane, intellettuali, chissà. Questo è un po', diciamo, l'elemento di riflessione. E beh, ci si dà un po' importanza anche con ci si dà importanza, uno ti sbatte lì, sono un non so, un web writer, ecco, sono un web writer. Fa pensare a qualcosa, diciamo, di importante, questo è vero. Quindi è, può darsi che si tratti di un sì, beh, non può darsi, il web è ormai diventato un vero e proprio rifugio linguistico, e questo rifugio linguistico si è generato attraverso il para-inglese, una sorta di lingua di mezzo che neutralizza i significati e lascia sospesi i lettori all'ambiguità, alla vaghezza. No, lei tra l'altro parla anche dell'importanza invece del linguaggio dei giovani. Io ho due adolescenti e davvero le nuove generazioni, anche con i loro contributi, non sono tutti negativi, con i loro contributi portano a delle modifiche sostanziali della lingua. Mi ha incuriosito il fatto, e lei in un'intervista ha detto i giovani utilizzano l'aggettivo indegno in maniera positiva, cioè, come dire, con un'accezione positiva, cioè. Sì, è un po' in voga, ho notato nell'ultimo periodo, questa è proprio una vicenda semantica bella e buona, perché noi, insomma, quando parliamo di indegnità, insomma, pensiamo a delle cause di immoralità nello stesso tempo, quindi è un soggetto che di certo, insomma, non è proprio persona a modo. Nel caso invece degli adolescenti in particolare, ho notato che utilizzano indegno proprio per esaltare addirittura un gesto, addirittura un gesto sportivo. Indegno può essere un gol di Ibrahimovic, ne parlavo proprio nei giorni scorsi durante un'intervista. Quindi un'azione rocambolesca ma portata a termine con grande eleganza, indegna, cioè, detto proprio come se fosse una cosa bella, positiva, ci convince tanto da privarci di dignità, sto cercando di interpretare assieme a lei in questo momento. E questi sono fenomeni curiosi, questo ci fa capire però un aspetto importante della lingua, perché in genere io sento spesso persone preoccupate per le sorti della nostra lingua, ma in realtà io non mi preoccuperei tanto, perché come ho sottolineato in altre interviste, la nostra lingua sta sempre bene, la lingua è espressione viva di una comunità, sicuramente non è plastica, perché lo abbiamo detto, ci sono delle regole alle quali dobbiamo sicuramente attenerci, tuttavia abusi ed errori in realtà sono fenomeni paralleli. Il linguista che cosa fa? Li osserva, li studia, ma non li rifiuta in blocco, li deve considerare, poi nel tempo chissà, magari qualcosa diventa pure, entra pure a far parte del nostro registro, no? Ci sono poi delle modifiche, naturalmente non nel brevissimo periodo. Questo. Comunque, professor Mercadante, che dobbiamo dire? Viva il congiuntivo, questo è un po' il suo slogan. Non uccidiamo il congiuntivo prima questo del tempo. Sì. Prima questo sì. Io sono tra gli intolleranti, lo confesso me ne vergogno. Resto intollerante e intransigente su questo. Infatti io prima, come mi fa notare un ascoltatore, le ho detto, mi incuriosiva il fatto che lei ha detto, e lei non mi ha corretto, che lei abbia detto. Vede, è così. Sfugge. È italiano parlato e sbagliato, ecco, per carità, è grammaticalmente sbagliato. Grazie al professor Francesco Mercadante, segnalo la sua grammatica umoristica, Margana Edizioni, e andiamo alla borsa. 1, nessuno, 100 Milan. Sound girl, 10:38 minuti. Come detto, oggi non c'è Leonardo Manera, ma tornerà con noi lunedì. State tranquilli, viva il congiuntivo, come ci ha spiegato il professor Mercadante e come ci spiegano e ci scrivono molti ascoltatori. E alle 10:38 minuti, eccolo qua, è comparso il mio scrittore preferito, torna con noi Mauro Corona. Buongiorno Corona. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. In Italia, perché ieri per esempio ho finito l'ultimo, un altro libro di Joel Dicker, che è svizzero, quindi il mio scrittore preferito in Italia, ecco, va bene comunque Corona, sì. Va bene. Infatti. Allora, ma sai che l'ho pensata l'altro giorno quando vedevo ancora questo bellunese piegato dal maltempo. Poi a un certo punto ho visto l'Ungarone, ho detto l'Ungarone, ancora. E qui vicino a 10 minuti. Sì, ci risiamo, insomma. Ma lì cos'è? Cioè è il territorio che è tenuto in maniera non con tanta cura. No, è un po' in tutta Italia questo. Ci sono delle precipitazioni fuori misura, quindi non bisogna dare colpa. Certo, ci sono stati, in merito ad esempio alle alluvioni, ci sono troppa cementificazione, boschi trascurati, però non cerchiamo sempre il capro espiatorio, la natura è così, diceva Pessoa, la natura mai si ricorda. E perciò è bella, non è che quando viene l'alluvione, non lo so, o il vaia non torni. E quindi dobbiamo attrezzarci, abbiamo sempre pensato a ora, invece bisognerebbe pensare a cosa succederà e prendere le dovute cautele, ma siamo degli improvvisatori, siamo degli estemporanei noi italiani, sì. Finché ci va bene ridiamo e poi si corre ai ripari. Improvvisiamo, l'ultima, io non ho commentato all'inizio della trasmissione questa vicenda degli spostamenti per Natale, adesso forse si torna un po' indietro, i piccoli comuni, e io lo capisco la differenza tra un piccolo comune e vivere a Roma o a Milano. Mi pare, l'ho detto l'altra volta, ma Conte ha tutto il mio rispetto, è anche un bell'uomo, però sa cos'è la montagna o no? Perché allora a Roma io posso circolare e farmi chilometri, perché non è erto Roma, è un po' lunga, e invece qui non posso andare a Cimolais, che sono 6 chilometri. Ma che discorsi sono questi? Vado a prendermi il giornale, io tutte le mattine, anche quando chiuderò con voi vado a prendermi, non posso più andare a Cimolais, non posso andare a Longarone, dove noi viviamo a Longarone, il confine col Veneto è qui a 1 chilometro, dopo la diga. E allora cosa facciamo? Cioè bisognerebbe, ma l'ho sempre detto anche in qualche trasmissione, che i provvedimenti vanno studiati e mirati. Se io, la politica deve essere un bisturi che interviene là dove c'è bisogno e non in tutte le parti del corpo uguali. Invece fanno di ogni erba un fascio, bruttissimo proverbio. E allora isolando la povera gente, ecco. Effettivamente adesso pare che per i piccoli comuni, adesso non so che limitazione, se si metterà una limitazione, non so, 5.000 abitanti, si lamenteranno quelli di 5.000. Noi siamo 300, ma allora perché, ecco il punto dolente che pochi capiscono o osservano. Allora adesso hanno capito che hanno sbagliato, ma continuano ad andare avanti a tentoni, a tentativi, e li capisco perché non era mai successo. Ma allora se capisci adesso che hai sbagliato e corri un po' i ripari, dovevi capirlo anche prima, non si buttano fuori decreti da giorni di notte, un giorno all'altro, bisogna studiare, lì va bene questo decreto, no, siamo già soffocati dalla vita, ci hanno già macellato col Vajont, e alluvioni, e nevi a 2 metri, pensate un po' anche agli ultimi, non solo alle grandi città, questo vorrei raccomandare a Conte, venga su a farsi un giro qui, vedrà quando ha fatto un giro qui, nelle terre estreme e desolate, i suoi decreti saranno un po' più intelligenti. È conoscere più il territorio, è conoscere tutta la peculiarità delle varie situazioni. Ma le faccio una domanda politica, Corona, ma cade il governo? La segue un po' questo Manfrina, questo balletto? Io mi interesso, politica non mi occupo, semmai mi preoccupo, però mi affascina vedere come si comportano, se Renzi insiste può darsi anche che cada, ma io penso che sia anche estenuato. Noi siamo, l'ho detto prima, degli avventurieri della vita l'italiano, e mi piace anche questo. Sì, sì. Quindi adesso è già stufo di questo governo, vuol vedere qualcosa succederà, ed è probabilissimo che vada giù, perché vogliono vedere, andiamo allo sbaraglio, vediamo cosa succede. Vediamo, cioè, quindi lei, secondo lei è possibile, certo. secondo è possibile. Non entro più nella questione, però lei finita la trasmissione ha detto che va a prendere il giornale, quindi non l'ha ancora preso il giornale, tipo, no. Non ha ancora visto che sul Corriere della Sera, pagina 53, c'è mezza pagina di intervista al direttore di Rai 3. È giusto a Fran di Lago, è giusto sentire... Lei lo chiama di Lago, si chiama è di mare. Sentire le due campane. Corona, è il titolo. L'ho già detto, a voi che mi ha ferito e questa millantata amicizia con me e poi girarmi le spalle e pugnalare la schiena. Però ce l'ha anche con Bianca Berlinguer, che fa delle interviste, ma guardi, dice questo: può tornare Corona, è una decisione della Rai, se l'azienda cambia idea, puntini puntini. Guardate, ecco, il fatto lo testimoni il fatto che vuol far fuori la Berlinguer. E mi assumo le responsabilità della mia voce, quindi di quello che dico. Il fatto che la voce, e che manda, com'è possibile che un direttore di rete, lui è il direttore, ma il direttore della RAI, il presidente, il direttore, permetta a giornalisti della RAI di andare ospiti nelle reti rivali? Sì, come è successo al conduttore di Report. Per togliere ascolti a chi? A me no, Io ascolto, mi ascoltano le nevi, per togliere ascolti a Carta Bianca. Quindi ci hanno mandato, hanno permesso a giornalisti RAI, anche di un certo spessore, anche si può fare anche sì, i nomi. Ranucci di Report è andato di andare alle reti rivali, alla sette, non sì, mi pare, sì. No? E poi dicono a Bianca: tu non dovevi parlare. Se non avevi il permesso della RAI, ma che dittatura è questa? Cioè la Bianca non può rilasciare interviste se non col permesso di ma che è questa dittatura? Questa è la democratura di Petra Matvievich, Io... Però a me ha ferito la cosa che quando voglio fare il capro espiatorio lo decido io, non di Lago. Per cui lui ha sbandierato questa difesa delle donne tramite la mia offesa, io ho offeso una donna. Ma ci sono migliaia di interviste dove difendo la donna, l'ho sempre difesa a spada tratta, perché ho visto la violenza sulla donna, su mia mamma, ecco, quindi non sì, è possibile poi, che... Ma poi l'ha offesa, ha chiesto scusa, è finita lì, adesso il suo amore per Bianca, come la chiama Bianchina, cioè, ci sarà, non so, è il desiderio di Natale, guardi, una reunion, non guardi, lo so. Io tornerei volentieri lì, perché mi divertivo anche, poi davo da mangiare alla mia vanità, eccetera, eccetera. Però a questo punto mi sono anche avvilito, no? Perché non si può più... Non si può più dire buongiorno oggi, che se non lo dici in un certo modo rischi di essere denunciato, rischi... E come si fa ad andare avanti? È una società arrabbiata che ti aspetta al varco. Sì, non va bene così. Non funziona così. Vabbè. Poi, ripeto, ma deluso, perché avevo un rapporto, chiamiamolo amicizia, ci vedevamo poco, con Frank di Lago. Ecco, e mi ha mandato anche un messaggio, non so se l'ho letto, quindi l'altra volta l'ha letto, ce l'ha ecco letto, e allora come si fa a voltare così? Poi si lamentano con la politica e sono i voltagabbana. Il peggior voltagabbana è quello che tradisce l'amicizia. Quelli sono i voltagabbana. Per quel che amico possiamo, mio carissimo, amico mio carissimo, invece, dico a tutti che siamo amici, però la Bianca non lo aveva detto. Che motivo c'era sotto? No, ma Ma Mauro Corona, per quel che può servire, noi qui la invitiamo quando vuole. E anzi, dico anche, visto tempo di Natale, tempo di libri, compratelo l'ultimo di Mauro Corona, l'ultimo sorso, La vita di Celio, questo personaggio, che è un po' anche lo stesso Mauro Corona. Grazie Corona, ci sentiamo presto, devo andare al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Thank you. can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Milan, faccio un appello alla Svizzera, invadeteci, così diventiamo tutti svizzeri. Cioè Elisabetta vive nel paese dove si mangia meglio al mondo ed è là a comprare roba in Svizzera, che basti si comprasse del formaggio e della cioccolata, per il resto lasciamo perdere. Ma insomma, non vi fidate, la rösti è una pizza di patate. Le patate vanno messe in frigo per un giorno, poi vanno grattugiate a scaglie, si ammassano tutte queste scaglie tipo pizza, si mettono in padella, si frigge, si fa una crosta croccante sulle superfici e questa la rösti. Mangiatette i rösti, ma è chi come che le mai? Ecco. Ma la puntata sta finendo, cosa? Ma ancora? Ma che succede? Oh mamma mia! No, ma niente, cosa c'è? Volevo banalmente ringraziare gli ascoltatori per gli attestati di vicinanza e stima che stanno mandando. Non tutti stima adesso. Non tutte stima, però diciamo che molti stanno capendo la tristezza che sto provando in queste ore da quando ho realizzato che dovrò stare lontana dalla Svizzera un po', ecco, causa DPCM, Cosa dice l'ascoltatore che ha detto? Ma rimanici in Svizzera, ma rimanila! Non lo so, guarda, gli rispondo che mi manca già la visione, la visuale delle banche svizzere, queste vetrine confortanti dietro le quali sai che ci sono fior di lingotti. Mi manca già l'umorismo svizzero, quel senso dell'ironia noto in tutto il mondo. Sì. Noto. Sì. Vabbè, comunque biondo. Sì. Alino, volevo dirti che sono uscita di casa perché ho deciso che oggi a pranzo. Rösti. Oggi a pranzo voglio mangiare i rösti, devo veramente colmare questa. Ragazzi, ma cos'è sta improvvisa? Sì. Vabbè. Sì, ho deciso così. Adesso guarda, sono entrata. Attenzione, aspetta, c'è una domanda fondamentale. Un'ascoltatrice da Berna chiedeva questo: ma metti e aggiungi lo speck? È fondamentale perché sennò. Sì, è una versione dei rösti interessante, quella con lo speck. Sì. E tu la preferisci così? Ma io le amo tutte, diciamo che mangio quelle che trovo già confezionate e pronte, visto che non li so preparare. Eccola. Ecco, su questo non lo so. Magari... Chiedi se non ci sono i rösti. Signora, scusi, sa dove trovo i rösti? Non lo so, provi a chiedere. Giustamente. Secondo me verrai cacciata. I rösti? Sarebbero, scusi, strionfo! Svizzera è famosissima, perché mi mancano un sacco. No, che è un dolce, è salatissimo. Patate? Non li trovo. Patate? È di patate, sì. Niente, Fusconi, ci dobbiamo... Guarda, non c'è maniera, ma come amarezza oggi... Una figura dei rosti... Ci hai pensato tu, Niente, vabbè, guardo nel reparto. Grazie, signora. Cara Elisabetta Fusconi, dobbiamo chiudere, ma mi sembra che sia stato un disastro con questa ascoltatrice. Niente. Dovrò attendere per i rosti. Dovrai attendere. Torno a casa, provo a farli personalmente. Prova a farli. Vi racconterò poi. I rosti cosa? È la domanda. Ma è un dolce? No, il peggio è un dolce. È un dolce, vabbè. Vai a preparare i rösti, va, che è meglio. Qui ci fermiamo e ci ritroviamo lunedì. Ed il respiro piano piano ci ritorna e qui fuori fa le nuvole di fumo. Siamo sdraiati sul caprame, quelle stelle sono vere, almeno qui non ci sparerà nessuno. E Carnevale si sta sbellicando, e io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì.